Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. Vedo già un messaggio, una contestazione preventiva. Devo ancora iniziare a parlare, ma va bene così. Già ci annoia con la classifica, ci manca solo che oggi parli del Censis. E mi dispiace, un venerdì nero per lei, perché oggi facciamo classifica, borsa e rapporto Censis. E venendo seri, rapporto Censis, però lo dirò anche col direttore generale che avremo nostro ospite, che sostanzialmente si titola La ripresa c'è ma cresce il rancore, non si è distribuito il dividendo sociale della ripresa economica e il blocco della mobilità sociale crea rancore. Molto modestamente lo vediamo tutti i giorni, adesso sono serio, dai messaggi che ci arrivano ogni volta che commentiamo dati economici in miglioramento, e questo è un elemento oggettivo sia sul fronte del PIL. Oggi c'è una leggera revisione al ribasso, la crescita acquisita è all'1,4 non più all'1,5, il PIL nel terzo trimestre è stato rivisto come crescita leggermente più bassa, più 0,4 invece che più 0,5. Ma tornando al rapporto del Censis, ogni volta, ormai da tempo, direi da più di un anno, che emerge qualche dato positivo, invece che avere delle reazioni dicendo beh, speriamo che sia l'inizio di un insieme di dati, spesso i dati positivi sull'economia generano ancora più rabbia in chi scrive. Ora, questo al di là di alcuni ascoltatori è innegabile, siccome tanti anni che purtroppo secondo alcuni, per fortuna secondo altri, conduco questo programma, non mi era mai successo di vedere in maniera così forte una reazione così, diciamo, arrabbiata quando racconti che la produzione industriale sta crescendo, gli investimenti privati stanno crescendo, l'occupazione ancora in maniera insufficiente ma sta crescendo, il PIL un po' sta crescendo, anche i consumi. E la rabbia con cui viene espressa la contestazione fa capire, e oggi vedo che il Censis ne prende atto con una ricerca molto più sistemica e allargata, che c'è qualcosa che non sta girando, ossia è una ripresa appunto innegabile, ma come dice il Censis, che crea rancore perché non si distribuisce, quindi il problema è la polarizzazione di questa ripresa, tra imprese dello stesso settore o della stessa area geografica, cioè quella che ormai ha agganciato la ripresa, esporta, ha aumentato il livello dei prodotti come qualità e valore aggiunto e non ha problemi e dice tutto sommato le cose stanno andando meglio, e c'è quella accanto che queste operazioni non le ha fatte o che magari lavora soprattutto sul mercato interno e questa ripresa non la vede. E lo stesso si può dire per i singoli lavoratori a seconda delle fasce sociali a cui appartiene. Il rancore e la paura del declassamento è il nuovo fantasma sociale, declassamento non solo economico ma anche sociale, cioè sentirti al di là di quello che guadagni, sentire che tu hai perso posizioni nella scala sociale, che rischi di non solo di non salire più, che è un tema che vede i giovani in prima linea come percezione, ma anche che rischi di scendere nella scala sociale di qualche gradino. Questo lo dico perché a mio avviso sarà molto importante che ne tenga conto la politica se vuole fare una campagna elettorale, diciamo, o tutta, diciamo, giocata sulla ripresa c'è, siamo tutti contenti, e vai a sbattere sul rancore sociale che è presente in molte fasce della popolazione, oppure una campagna elettorale tutta dicendo non c'è nulla, si sta peggio di prima, che è un'altra balla dal punto di vista numerico, statistico e anche di quello che vedono altri italiani. Il tema è la distribuzione e la frammentazione, il cosiddetto disegno a macchia di leopardo di questa ripresa e la polarizzazione che sta creando anche all'interno delle singole classi sociali. Ne parleremo più avanti, avremo come sempre, lo dico nonostante l'appello dell'ascoltatore, avremo anche la classifica. Qualcuno mi dice mancano l'appello agli investimenti pubblici, sì, mancano gli investimenti pubblici e ne parleremo più avanti, però ripeto, qui il problema è anche di percezione a fronte di un dato aggregato che rischia di essere sempre di più la famosa media di Trilussa, cioè ogni uomo mangia un pollo, il punto è che se uno ne mangia due e uno ne mangia zero, quello a cui dici che anche lui ne mangia uno si incavola da morire. E l'altro è più contento di quanto dovrebbe essere, per usare la vecchia battuta della media dei polli di Trilussa. Tra l'altro poi ci sono dati oggettivi che il Censis elabora, al di là della ripresa in atto, fa notare come dal 2007 a oggi le persone in povertà assoluta, qui non c'entra la percezione, qui il dato è puramente economico, le persone in povertà assoluta sono aumentate del 165%, soprattutto al centro e al sud, 1.600.000 le famiglie in condizioni di povertà assoluta nel 2016, con 4.700.000 individui, boom di quasi il 96% per le famiglie e del 165% per gli individui. Tra l'altro il centro ha fatto più 126% e il sud più 100%. Ancora, dicevo, parleremo degli sprechi, come sempre, della pubblica amministrazione, e appunto alla luce anche di questo rancore giustificato, non è un rancore insomma così frutto di chi è semplicemente malmostoso, è un rancore giustificato, è ancora più inaccettabile quello che racconteremo anche oggi. Certo che vedo già molte che il problema ce l'ha soprattutto la classe media, ed è vero, cioè la polarizzazione riguarda e colpisce, spacca soprattutto la classe media, qualcuno finisce verso l'alto, ma una parte più consistente ha paura di finire verso il basso o c'è finita. Così come da questo punto di vista qualcun altro mi fa notare, certo che le politiche dovrebbero riguardare un abbassamento dell'IRPEF, sì, ho capito, il cuneo fiscale non mi sembra che, anzi non è in manovra, c'è la decontribuzione per i neoassunti e una parte del bonus bebè. È ovvio che lo shock positivo lo avresti solo con una politica molto forte anche di riduzione del cuneo fiscale, cioè abbassare le tasse per chi lavora o per chi il lavoro lo dà, la differenza tra quanto costi e quanto ottieni in busta paga. Però lì ci scontriamo con i vincoli europei e con, lo dico per essere noioso, l'assenza, al di là delle parole e della retorica in Europa, di una vera strategia per gli investimenti pubblici, al di là del cuneo fiscale. E cioè la storia dell'economia ci insegna che senza investimenti pubblici difficilmente tu recuperi uno shock come delle dimensioni di quello che è stato dal 2007 in poi, ma su questo l'Europa ha un altro atteggiamento. Va bene, la classe media non esiste più, sta diventando un bancomat, mi scrive un ascoltatore. Questo è il tema di apertura, questo è il tema che affronteremo nella seconda ora del programma. Per quello che riguarda invece la borsa, -1,15% in questo momento Milano, peggio di Parigi che comunque perde lo 0,70%, Francoforte -0,80%, Dow Jones -0,50%, Londra +0,22%, a Milano è positiva soprattutto Yux Net-a-Porter +3,60%, Tenaris +3,20%, Saipem +3%, Prismian +1,5%, Unicredit +0,70%. Il fronte opposto invece vede sostanzialmente cedere parte dei bancari e anche bancari assicurativi, ma in prima posizione in realtà di nuovo ST Microelectronics -2,5%, Italgas -2,5%, Unipol -2,5%, Buzzi -2,30%, Biper, ecco i bancari -2%, Unipol Sai -2%, Exor -1,90%, Ferragamo -1,80%, come Campari, Generali -1,70%, come Fiat Chrysler e Ferrari, Ubibanca -1,5%, euro su dollaro a quota 1,19. Vedo già molti messaggi, aspettate un attimo per la parte che riguarda il Censis. È chiaro che questo elemento di polarizzazione e di ripresa, che senza una redistribuzione diciamo adeguata anche sul fronte salariale oltre che sul fronte occupazione, e il rancore che produce in chi si sente escluso, perché magari lo è veramente, da questi dati economici in positivo, sei ancora più arrabbiato, cioè, lo sappiamo da sempre. Qualunque studio di psicologia sociale ti fa notare che se tu hai la sensazione che tutti stiano male o malino, sei meno incavolato, paradossalmente, fino a un certo livello, che non vedere che una parte del paese è ripartita e tu invece non vedi nulla. Questo genera il rancore nella percezione. Non è solo un dato economico. Se tu vedi che tutti stanno stringendo la cinghia fino a un certo livello, perché poi se stringi troppo soffochi, ma diciamo tu dici vabbè, faccio parte di un paese che è in difficoltà, ma quando vedi che i dati iniziano ad essere positivi e tu non ne hai nulla, nemmeno le briciole, solo le briciole, questo genera rancore. È importante, ripeto, che la politica ne abbia sentore, perché altrimenti fai una campagna completamente o miope o presbite, non so come dirti, o pensi che nulla sia cambiato e racconti cavolate, oppure pensi che tutto sia migliorato perché vedi il dato aggregato e anche lì racconti una cavolata e ti becchi il rancore sociale. Dicevo, andiamo subito alla classifica, prima di tutto però come sempre le notizie in breve, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e come sempre la diretta anche su Facebook. Come sempre partiamo dalle notizie di carattere internazionale. La Cina ha criticato la posizione statunitense al riconoscimento per la Cina di status di economia di mercato in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio, valutandola una reminiscenza della guerra fredda. Devo dire che anche l'Europa è molto molto scettica nel riconoscere alla Cina lo status di economia di mercato, anche perché per avere quello forse deve modificare qualcosa all'interno del sistema cinese. Mi riferisco per esempio al modo in cui vengono a quanto pubblico private per esempio siano le banche cinesi, oppure la garanzia che comunque arriva per i soggetti privati. Insomma, da noi in Europa la Cina, se fosse, diciamo, se aderisse alle regole europee, verrebbe sanzionata un giorno sì e l'altro pure per aiuto di Stato alle proprie imprese. Detto questo, andiamo avanti. La Casa Bianca ha affermato oggi di monitorare il mercato dei bitcoin, delle criptovalute, lo ha affermato il portavoce. Però ricordo anche che è stato dato via libera dalle autorità americane ai futures, quindi contratti su altamente speculativi, che dove vai a scommettere sul valore futuro, come dice il termine, di un in questo caso di un bitcoin. La Commodity Futures Trading Commission ha autorizzato via libera ai futures su bitcoin e alla vendita da parte del gruppo CME e di CBOE Global Market. Abbiamo avuto discussioni rigorose per assicurare standard appropriati. I partecipanti al mercato devono considerare che il nascente mercato di scambi per bitcoin è un mercato non regolato e su questo noi abbiamo un'autorità limitata. Vabbè, diciamo che è uno strumento che già, a mio avviso, è uno strumento esclusivamente speculativo, quindi se uno vuole investire e rischiare, ben venga, se no lasci stare proprio, e non è una valuta di scambio. Adesso si arricchisce, diciamo, della ciliegina di tutti gli investimenti speculativi, i futures, e quindi la scommessa su dove andrà il valore di Bitcoin nei prossimi mesi. Adesso non voglio tornare sui temi del Censis, ne parleremo, ripeto, una seconda ora. L'unica cosa che invece non discuto è la veridicità dei dati, perché un conto è dire che io non percepisco questa ripresa perché non la vedo, perché appunto è polare e tende a polarizzare, ma altra cosa è dire no, ma l'Istat racconta balle. Questa è una cavolata, perché l'Istat poi ha uno strumento di misura che è identico a quello di tutti gli Stati europei, fanno capo riferimento a Eurostat. Se iniziamo a mettere in discussione anche il dato Istat non ci capiamo più, e poi lo prende in considerazione l'Europa, mica lo prendiamo in considerazione solo noi. Altra cosa è dire che sia una media dei polli di Trilussa, questo si può dire secondo me, ma non criticare il fatto che la statistica ha sbagliato nel dire che ogni uomo mangia un pollo a testa. Del PIL abbiamo detto, ribassato al più 0,4 non più 0,5 nel primo trimestre, resta un quadro positivo, la crescita acquisita, quindi vuol dire se non dovessimo crescere nell'ultimo trimestre dell'anno comunque saremmo cresciuti dell'1,4%, in realtà a questo punto l'1,7-1,8 sembrano abbastanza raggiungibili. Accelerano gli investimenti, soprattutto privati, terzo trimestre più 0,3%, più 4,6% su base annua gli investimenti, questo è una buona notizia. L'industria ha visto un aumento su base annua del 2,9% su base annua, appunto, cioè il 3% quasi. Invece cadono nel settore agricoltura meno 6,7%. Qui c'è stato un impatto sicuramente della siccità dei mesi estivi. Due notizie ancora in breve prima degli sprechi. Allora, l'Italia deve fare di più per abbattere gli ulivi infetti, se no le conseguenze economiche saranno enormi. Qui c'è una polemica degli ecologisti che io non capirò mai. Andate a vedere qualunque inchiesta, documentario sulla xylella e scoprirete la responsabilità di chi non ha voluto abbattere all'inizio gli ulivi infetti, perché non bisognava abbattere gli ulivi infetti, perché in questo paese non si può mai abbattere nulla e adesso la conseguenza è che la xylella sta risalendo, diciamo lentamente, non solo il Salento ma l'intera Puglia. Adesso non voglio aprire questo tema. L'Unione Europea dice: la collaborazione del governo italiano con la Commissione Europea sul caso xylella è molto stretta, ci sono progressi, bisogna fare di più, l'Italia deve fare di più per abbattere gli ulivi infetti, se no le conseguenze economiche saranno enormi. Tra l'altro oggi segnalo anche un intervento del Ministro dello Sviluppo Carlo Calenda, che è intervenuto alla presentazione del World Energy Outlook all'ENI e ha ricordato non questa volta la vicenda Ilva ma la vicenda TAP, ricorderete gli ulivi, i 220 ulivi di cui parte già trasferiti per bloccare un gasdotto su base internazionale. Comunque ha detto Calenda: noi siamo in una condizione in Italia per cui un gasdotto come il TAP è in una situazione umiliante, non riusciamo a fare un tubo di un metro e mezzo. Tra l'altro, voglio dire, abbiamo raccontato più volte la vicenda, si trattava di interrarlo su 10 metri, rimettere gli ulivi, insomma, è sempre la politica del no a prescindere, dai. A proposito dell'IVA invece, ed è l'ultima notizia in breve, il commissario della concorrenza Margrethe Vestager, commissario europeo, ha detto trattiamo la questione ILVA con alta priorità, come facciamo con questi casi di acquisizione. Sfortunatamente non posso dire quando ci sarà una decisione. L'Unione Europea deve dare via libera all'operazione ArcelorMittal su Ilva, dicendo così che non c'è una concentrazione eccessiva nel settore della produzione dell'acciaio. La buona notizia prima della classifica riguarda quanto deciso dal Consiglio dei Ministri, che ha deciso l'uscita da fine anno della Regione Lazio dal commissariamento della sanità, cominciato nel luglio del 2008, perché la Regione ha raggiunto gli obiettivi avendo ottenuto il pareggio di bilancio ed è andata in attivo. Ed è una buona notizia perché è la seconda regione dopo l'Abruzzo che esce dalla procedura di commissariamento, altre invece vi sono ancora dentro. E poi la bozza del nuovo contratto degli statali prevederebbe, poi vediamo come verrà cambiata eventualmente, per i furbetti del io li chiamo i disonesti, del cartellino del weekend, dalla sospensione al licenziamento, si rimane fuori dall'ufficio e senza stipendio da 11 giorni a 6 mesi, fino a 2 assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e riposo settimanale. Scusatemi, settimanale. Questa è la bozza, e invece dalla bozza alla realtà, e allora partiamo con la nostra poco invidiabile classifica. La classifica della settimana. Partiamo dal quinto posto. Questa situazione è allucinante perché siccome oggi, scusatemi, la puntata riguarderà anche il merito, diciamo, della pubblica amministrazione, i premi e quant'altro. Allora, sentite questo. Abbiamo fatto moltissime puntate in cui ricordavamo le differenze nel paese su quanto si aspetta, le liste d'attesa se non vai nel privato e quindi non fai intramoenia delle volte, nel caso che vi sia, negli ospedali italiani, ricordando le cose allucinanti dalla Puglia alla Sicilia come dati negativi a quelli più positivi, Veneto, Emilia e Lombardia. Ma sentite questa che arriva da Lecco, quindi non... e tra l'altro ci è stata segnalata dagli ascoltatori, quindi vuol dire che questa classifica forse qualcosa di virtuoso ce l'ha. Allora, lui si chiama Gregorio Del Bocca, ha 61 anni, è primario di ginecologia al San Leopoldo Mandic di Merate in provincia di Lecco. Che cosa fa? Decide di lavorare anche il sabato, ma non per guadagnare di più o perché sia stacanovista, perché si mette a disposizione per evitare che i pazienti debbano aspettare troppo in lista d'attesa. Cosa fa il sabato? Sfrutta le stanze vuote dell'ospedale lasciate inoperose in caso di emergenza e fa operazioni ritenute non urgenti, così riduce le lunghe liste di attesa. Ora tu dici, uno così dovresti fargli gli applausi? No, no. Invece sul Del Boca si crea una vera e propria bufera. Alcuni colleghi, ma pensa un po', e i sindacalisti, ma pensa un po' anche stavolta, lo hanno segnalato ai responsabili della sanità locale e hanno presentato anche una denuncia in procura per utilizzi improprio di sale operatorie dell'equipe. Non solo, i vertici dell'ospedale, quanto mai diciamo rapidi e solerti non nel ridurre le liste d'attesa ma nel sanzionare chi cerca di sfoltirle il sabato, gli hanno comminato una sanzione disciplinare pazzesca, 60 giorni di sospensione senza stipendio, manco avesse rubato 2 mesi a casa. Allora, la sanzione è stata sospesa in attesa del ricorso presentato dal primario. I cittadini hanno raccolto già quasi 1000 firme a suo sostegno. Lui dice testualmente: noi medici dobbiamo riappropriarci del giuramento di Ippocrate. Sì, e anche la parte sindacale del mondo medico deve riappropriarsi del giuramento di Ippocrate. Con i miei collaboratori ho ricevuto attestati di sostegno personale, ma soprattutto di sostegno alla medicina che incarniamo, che non è quella delle regole, dei protocolli e basta, ma è quella basata sul rapporto di fiducia tra medico e paziente. Le norme devono essere rispettate e noi le rispettiamo. Il nostro obiettivo, tuttavia, è sempre solo quello della cura delle nostre pazienti, che sono persone. Questa è la posizione del medico. La posizione di Stefano Manfredi, direttore generale della ASST di Lecco, è questa. A fronte di segnalazioni specifiche, abbiamo l'obbligo di verificare. Non si accorciano le liste d'attesa come ha fatto lui, e soprattutto non con iniziative del singolo, ma con procedure condivise da tutti. Quindi, aggiungo io, Manfredi, direttore generale della ASST di Lecco, quindi lei ci sta dicendo: no, siccome questo è il paese del ben altro, tutti sono bravi, allenatori della squadra di calcio, tutti, quindi vuol dire che lei sta lavorando rapidissimamente a procedure condivise con tutti per accorciare le liste d'attesa, perché se no è una presa per i fondelli, se no è no, il problema è che bisogna avere procedure condivise. Condivise da chi? Fate le procedure per accorciare le liste d'attesa, se no ha ragione il medico che vi ha mostrato, il primario, vi ha mostrato come si possono sfruttare le stanze vuote e ci fate anche una figura da pirla. No, non voi, ma la struttura sanitaria, ci mancherebbe. Dopodiché lei si sarà mosso sicuramente sulla base delle segnalazioni e ci fanno una figura di quel genere anche i colleghi sindacalisti che hanno denunciato il medico. Uno poteva prendere il caso e portarlo come caso virtuoso. Scusate, perché visto che c'è questa cosa non la strutturiamo benissimo? No. Allora, mi attendo che il direttore generale della ASST di Lecco, chiaramente il PIRLA mica era rivolto a lui, era rivolto alla figura che fa la struttura complessivamente nel sospendere per 2 mesi un primario perché ha cercato di accorciare la lista d'attesa. Ha sbagliato la procedura, diteci qual è e com'è la procedura condivisa, se no è una frase che non vuol dire nulla. Ma andiamo al quarto posto, perché forse c'è da sanzionare, ma questo è un paese bellissimo. Tu sospendi per 2 mesi un primario che fa una cosa del genere. Ma sentite questa, tanto so già che chi vota 5 Stelle mi criticherà, ma siccome questa volta riguarda un esponente del 5 Stelle non me ne frega una mazza. Tanto abbiamo criticato PD, MDP, Forza Italia, Lega. Quando sono in classifica? Sono in classifica. Nord, centro e sud. Abbiamo un primario a Lecco che viene sospeso per 2 mesi perché cerca di accorciare le liste d'attesa. Sicuramente non avrà seguito tutte le procedure, non lo so. Ma abbiamo un insegnante che insegna italiano nella classe che si è appena formata, la prima A, a Torino. E adesso vi do anche, appena la becco, l'istituto comprensivo Manzoni. Prima A, primo giorno delle elementari, la professoressa di italiano non è un dettaglio, e soprattutto l'insegnante italiano non è un dettaglio, la maestra italiana non è un dettaglio, da settembre non l'hanno mai vista. Tant'è che i genitori iniziano a portare i figli in altri istituti, perché non è un dettaglio, anche perché c'è una supplente che è arrivata e poi si è ammalata. E insomma, ma che cosa succede? Allora, è tutto regolare, nel senso che Valentina Puglisi è portavoce del Movimento 5 Stelle a Mister Bianco in Sicilia, provincia di Catania. Insegna però a Torino e appunto alla prima A di Corso Marconi. Lei praticamente è portavoce a 1500 km di distanza. Allora è inutile prendersi per i fondelli. È chiaro che se tu nella vita fai una scelta più che legittima di fare la carriera politica, di diventare portavoce del Movimento 5 Stelle, a Mister Bianco ti devi mettere in aspettativa. Perché se no, che cosa succede per le regole dello Stato? Succede che se tu non ti metti in aspettativa, il tuo posto non può essere coperto, devi andare di supplenza, di supplenza, di supplenza. Allora, benissimo che uno faccia la portavoce, ma poi si mette in aspettativa, perché l'attività politica può essere anche più nobile, dipende dalle valutazioni, dell'insegnamento di italiano, ma non lasci una classe che si è appena formata allo sbando perché tu non ti vuoi mettere in aspettativa e vuoi tenere il posto lì. E invece niente. Allora, e il preside dice non l'abbiamo mai vista da settembre, questo è il caso, è un po' diverso dai docenti fantasma. I docenti fantasma sono insegnanti nominati di ruolo che, siccome però sono nominati in città distanti da dove gli piacerebbe vivere, non si vedono mai perché risiedono in regioni lontane. E cosa fanno? Giustificano l'assenza con motivi di famiglia, certificati medici brevi rinnovati di settimana in settimana, pure lì l'ordine dei medici prima o poi interverrà sui certificati medici. Mai visto una sanzione a un medico per ora, di quelle che abbiamo raccontato, per un certificato medico, diciamo, traballante quantomeno. E in questo modo conservano il posto di lavoro, ma di fatto impediscono ai dirigenti scolastici di trovare per i bambini qualcuno che garantisca la continuità didattica. Allora, in questo caso, l'insegnante, io ho sbagliato, il direttore che ha la pratica in mano è il direttore dell'Istituto Comprensivo Manzoni, ma lei insegna all'elementare Raineri di San Salvario. Lei si chiama appunto Valentina Puglisi, siciliana, classe 1980, ha la cattedra di italiano, classe prima, costituita quest'anno, professoressa apprezzata, anche perché 2 anni fa aveva già fatto un anno di prova con un servizio ineccepibile, dicono la scuola appunto di San Salvario. Lei però ha la passione della politica. A giugno viene eletta con 98 voti come consigliera comunale a Mister Bianco, comune appunto di 50.000 abitanti vicino a Catania. Ora è chiaro che se devi fare la portavoce è difficile che tu riesca a insegnare, ma lei si limita a beneficiare dei permessi previsti per la legge e dice: non commetto alcuna irregolarità, le licenze le permettono di assentarsi per la giornata dei lavori consigliari, stabilendo il diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Ora però è chiaro che se tu il consiglio ce l'hai a Torino ti assenti per 2-3 ore, ma se stai a Mister Bianco che cosa succede? Non solo non ti presenti in classe il giorno che hai la commissione, ma se per esempio è il martedì tu hai il lunedì e il mercoledì come permesso per i viaggi di andata e di ritorno. E meno male che non è la Pantelleria, e meno male che non abbiamo più le colonie, perché poteva essere Addis Abeba, poteva essere Tripoli, bel suol d'amore, no? Meno male che abbiamo limitato il patrio suolo alla Sicilia, Pantelleria, Lampedusa. Mi chiedo altrimenti. Allora, cara professoressa, bellissima la sua attività, può per favore mettersi in aspettativa, fare in modo che questi bambini abbiano un insegnante che garantisce continuità e lei faccia la bellissima attività di portavoce del Movimento 5 Stelle? Di 5 Stelle, e dice lo stesso dirigente scolastico, c'è una sovrapposizione di norme regionali e nazionali. Il risultato è che lei continua a percepire lo stipendio da maestra e non vuole chiedere il congedo. Capisce? Un primario sospeso per 60 giorni è giustamente una persona che manco ha così lo scatto di orgoglio professionale nel dire voglio fare il portavoce. È inutile che continui a lasciare questi ragazzi 3 giorni di supplenza, poi ritorno, poi a parte che non l'ha mai vista a settembre. Dai, andiamo sul metodo. Focus Economia. ...17.43 minuti, di nuovo in diretta. Allora, al terzo posto della classifica andiamo sulla mitica autostrada Roma Latina, dove è arrivata la prescrizione, nel senso che politici, funzionari regionali, manager, tutti responsabili dello sperpero di 20 milioni di fondi pubblici bruciati nel progetto per l'autostrada Roma Latina, da decenni oggetto di promesse elettorali, non c'è manco un metro d'asfalto. I giudici d'appello della Corte dei Conti non hanno dubbi sul danno erariale, tant'è che hanno rigettato come inammissibile il ricorso dell'ex governatore della Regione Lazio, responsabile del progetto, Francesco Storace, dichiarato inammissibile, e quindi non può neanche lui, puntava l'assoluzione. Purtroppo il fatto è che la sentenza definitiva è andata in prescrizione e quindi a pagare sarà solo, cioè il reato è andato in prescrizione nonostante la sentenza definitiva, a pagare sarà solo un ex dirigente della regione, tale Raniero De Filippis, già imputato nel processo Cerronopoli e coinvolto in numerose inchieste, gli hanno fatto anche lo sconto, alla fine dovrà risarcire solo 430.000 euro, tutto il resto la collettività italiana l'ha perso. Latina, per carità, è la seconda città più popolosa del Lazio e servirebbe una bretella, perché ci sono numerose realtà industriali nel frattempo. Sembrava cosa fate ai tempi di Storace, viene costruita una società mista ad hoc, l'Arcea, che deve progettare e eseguire. Il 51% è in mano alla Regione Lazio, il resto è un gruppo di privati, società autostrade del gruppo Benetton, Monte dei Paschi, Merchant Bank e Consorzio 2050, con dentro consorzio Coop, costruttore della Lega Cooperative, e poi Socca, Stramodi, Erasmo 5 e via così. L'antitrust però ritiene illegittimo il fatto, e anche l'Unione Europea, che la pianificazione, progettazione, esecuzione e gestione dell'infrastruttura vengano affidate ai soci di minoranza. A questo punto è presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo, l'Arcea viene messa in liquidazione, sostituita da Autostrade del Lazio, composta da Regione e ANAS. Però il problema sono i progetti, non i lavori, già realizzati, e la società liquidata, appunto, batte cassa. Viene stipulato nel 2009 un accordo di transazione in base alla quale si stimano questi progetti realizzati da questo consorzio, appunto, che si chiamava Arcea, che abbiano un valore di 48 milioni di euro, fanno la differenza con quanto già pagato, e alla società vengono concessi 30 milioni. Una somma imponente. La procura contabile, la Corte dei Conti indaga e dice no, dice, l'accordo di transazione con la vecchia società che avete liquidato è troppo a vantaggio dei privati, chissà che cosa sarà successo, ma non lo possiamo sapere, è quello che ha firmato il De Filippis. E tant'è che 2 anni fa la Corte dei Conti del Lazio dice che c'è un danno di almeno 20 milioni di euro e che i funzionari, gli amministratori hanno agito con estrema leggerezza e noncuranza dell'interesse pubblico. Però specificano anche che era tutto prescritto, esce dal processo lo stesso Storace e poi condannano solo De Filippis a risarcire 600.000 euro. De Filippis ha sottolineato che lo Stato del Lazio avrebbe stato alla regione 60 milioni, comprendo anche le spese dell'accordo transattivo. Insomma, c'è uno sconto di pena per De Filippis, 430.000 euro. Comunque, nonostante sia caduto in prescrizione, la Corte dei Conti ha definito inammissibile l'appello di Storace, che puntava alla soluzione piena, e ha detto che il danno si è solo spostato dalla regione ad Autostrade del Lazio, che è pubblica e va avanti con i fondi pubblici. Quindi, stranamente, abbiamo non solo neanche un metro di strada, ma c'è un danno di almeno 20 milioni di euro di sovrapprezzo dato riconosciuto alla prima società per i lavori di progettazione, ma chissà. Allora andiamo sul traffico e adesso e poi chiaramente per secondo e primo posto. Focus Economia. Secondo e primo posto, arrivano molti messaggi sul primario. Abbiamo detto che la sospensione è stata sospesa perché lui ha presentato un ricorso, ma resta la vicenda, primario di Lecco. Allora, secondo posto, non poteva mancare l'ATAC. L'ATAC, c'è una buona notizia, c'è l'accordo con i sindacati per l'avvio immediato dell'incremento di produttività per la municipalizzata dei trasporti di Roma. Quindi passaggio per tutti i reparti dell'azienda da 37 a 39 ore di lavoro settimanali. Questo in un periodo in cui è difficilissima la situazione dei trasporti a Roma, più del solito, perché ci sono, soprattutto nella metropolitana, è sparito quasi il 10% dei chilometri programmati e le attese finiscono per superare i 20 minuti, viaggiano non più della metà dei convogli previsti, le banchine si stipano all'inverosimile e l'ATAC ha deciso di bloccare gli utenti agli ingressi impedendo, quindi le banchine a numero chiuso, altrimenti era un disastro. Una domanda la faccio però all'ATAC: riuscite a chiarirci se, visto che comunque ha 1,4 miliardi di debito, ha fatto richiesta di concordato preventivo in tribunale e ha appena ottenuto una proroga di 2 mesi, grazie appunto alla sponda dell'accordo con i sindacati sul piano industriale, riuscite a dirci se distribuirete i premi ai dirigenti? Perché è ovvio che non possono essere distribuiti i premi ai dirigenti quando tu hai chiuso un anno horribilis come il 2017 e sei finito in commissariamento. Perché vorremmo capire se i 3.158.000 euro di premi da versare ai quadri dirigenti per i traguardi raggiunti nel 2017 esistono o no. Non si capisce, perché l'ATAC dice no, non pagheremo quest'anno, però vorremmo capire, possono contare o no i dirigenti su un bonus medio di circa 25.000 euro con picchi di 40.000 euro per 7 manager, 2 dei quali risultano addirittura in aspettativa? Non sono tanti, direte voi, ma insomma 108.000 euro è la media degli emolumenti erogati da ATAC ai suoi manager, non mi sembra pochissimo. Tra l'altro, questo in una situazione in cui ha 0 euro in cassa, non ci sono pezzi di ricambio né manutenzione, e appunto il 15% in meno del trasporto di superficie e la picchiata del servizio metropolitana. E poi i 47 manager, compreso Simioni, che è il direttore generale, avranno nel 2017 un monte ingaggi di 6.140.000 euro, che è la somma tra stipendi 5.700.000 euro e 1.703.000 euro di obiettivi centrati. Vorremmo saperlo, perché la cosa non è chiara. E invece in 2 minuti è chiarissima quello che è il vincitore della nostra classifica. Andiamo. And the winner is... E la pubblica amministrazione. Allora, l'intenzione del governo con la riforma Madia e i premi era quello di avere una valutazione dei risultati migliore. Per ora stiamo creando un'enorme struttura burocratica autoreferenziale che vede ogni anno 152 piani triennali annuali di performance con 887 obiettivi strategici, migliaia di obiettivi operativi, 120 relazioni finali, altrettante vidimazioni da parte di 2.626 valutatori e 133 sistemi di misurazione. Per che cosa? Per riuscire a valutare se i manager della pubblica amministrazione, i dirigenti, hanno centrato il loro obiettivo. Fino adesso succedeva che il dirigente determinava lui i suoi obiettivi ed era lui valutatore. La riforma Madia perlomeno elimina il fatto che il valutatore possa essere un dirigente, è uno del ministero o di dove lavora, ma non può essere un dirigente che si autovaluta. Non cambia molto, perché gli obiettivi dispone sempre il dipartimento di riferimento. È la stessa amministrazione a indicare che qualche cosa deve fare lei stessa, e se lo ha fatto bene. Barisoni, come conduci? Benissimo. Hai fatto il tuo compito? Bene. Ti merita tutto questo impegno? No, più alto, più obiettivi. Allora, tutto questo ambaradan burocratico lo abbiamo creato per ottenere il seguente risultato, anche perché non c'è un organismo esterno, come avviene in altri paesi, per valutare se un dirigente abbia effettivamente raggiunto i suoi obiettivi. Il risultato è questo. Ministero degli Esteri, 6 dirigenti di prima fascia e 45 dirigenti di seconda fascia. I primi hanno raggiunto il 100% dei risultati attesi, i secondi punteggio pieno per 35, 8 tra il 90 e il 100% e 2 soli sfigati tra il 60 e il 90. Dei 4.340 dipendenti al Ministero degli Esteri, oltre 1.000 hanno centrato gli obiettivi e gli altri sono arrivati tra il 90 e il 100%. Ancora, Ministero della Difesa, ve lo racconto dopo, perché poi ho anche la startup. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in digital. Focus Economia. 18 e 8 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavo concludendo il primo posto in classifica, cioè i dirigenti che riceveranno, che avranno gli obiettivi raggiunti anche quest'anno. Eravamo dopo il 100%, tra il 100 e il 90% del Ministero degli Esteri, il Ministero della Difesa, su 102 dirigenti di seconda fascia, 100 sono appena sotto il massimo. Alle infrastrutture e alla politica agricola, la totalità dei dirigenti stanno tra il 90 e il 100% degli obiettivi raggiunti. Te credo, visto che gli obiettivi li stabilisce lo stesso Dipartimento, che dice a se stesso dove devi arrivare. E poi en plein anche per realtà come l'ente Parco Nazionale d'Abruzzo, 100%, e Accademia della Crusca, 100%. Questo è il brillante risultato dei 2.626 valutatori, dei 133 sistemi di misurazione, delle 120 relazioni finali e delle 120 vidimazioni, dei 152 piani triennali annuali di performance e degli 887 obiettivi strategici e delle migliaia di obiettivi operativi. Ma tanto, se per raggiungere sempre il 90 e il 100%, diamogli in automatico. Una volta si contrattavano con i sindacati gli obiettivi. Vabbè, complimenti a tutti i dirigenti della pubblica amministrazione, non ai bravi, ma a tutti quelli che anche da non bravi hanno raggiunto il 90 e il 100% degli obiettivi. Ho detto a chi mi scrive sull'ATAC che mi aspetto che ci siano dichiarazioni che non abbiamo trovato ufficiale in agenzia, che non verranno dati i premi dirigenti all'ATAC. Immagino che il sindaco stesso di Roma Raggio, visto alcune dichiarazioni, ma voglio vedere la cosa ufficiale. Appena arriverà la cosa ufficiale la daremo nel corso del programma. Comunque, Lorenzo Frangi, fondatore di Springa, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera a tutti i radioascoltatori. Buonasera a lei. Allora, che cos'è Springa, che cosa fa, chi vi ha aiutato e che obiettivo avete? Springa è una startup innovativa incubata al Politecnico di Milano, che sviluppa Golea CNC, che è una presa a controllo numerico portatile, in parole semplici un piccolo robot che effettua lavorazioni di fresatura, quindi asportando materiale, riproduce dei disegni che si fanno a computer su diversi tipi di materiali, quindi pannelli di legno, plastica, alluminio. E chi vi ha aiutato e a che punto siete e se avete assunto? Ci ha aiutato il Politecnico di Milano. Allora, noi siamo tre ex studenti di design e ingegneria. Siamo incubati presso PoliHub, l'incubatore di impresa del Politecnico, dove ci sono i nostri uffici e le nostre sedi. Abbiamo fatto un percorso di accelerazione imprenditoriale, dopodiché appunto abbiamo deciso di posizionarci lì. PoliHub è gestito da Fondazione Politecnico di Milano e ci ha permesso anche di entrare in contatto con altre realtà che ci hanno aiutato a integrare il team, sia dal punto di vista tecnico, con una collaborazione con Enovia, che è un altro spin-off del Politecnico, come la nostra società Springa, e con alcuni investitori, con alcuni dei quali abbiamo chiuso un deal, un finanziamento seed la scorsa primavera, un gruppo di imprenditori veneti di nome Comita, che appunto è entrato in società e ci ha permesso di ultimare lo sviluppo del prodotto e arrivare sul mercato qualche settimana fa. Allora, l'obiettivo che avete per concludere come vendite e quanti siete? Allora, noi siamo in tre. Sì, quello che dicevo, non avete ancora assunto nessun altro. No, però da gennaio, visto il risultato della campagna di crowdfunding appena conclusa di grande successo, sicuramente dovremo assumere, abbiamo in mente tre figure fondamentali per implementare il team. Allora, in bocca al lupo a lei e ai suoi due soci. È ottimo anche il percorso che avete fatto nel crowdfunding, sperando appunto che da gennaio iniziate ad assumere. Ripeto, la società che me lo chiede si chiama Springa ed è una fresa, se posso tradurla così, intelligente per il legno, e anche così si va avanti. In bocca al lupo e complimenti a Lorenzo Frangi. Adesso andiamo sulla borsa. Dovrete accontentarvi di me, perché fra poco invece voglio intervistare il direttore generale del Censis. Allora, oggi la borsa di Milano debole, ma devo dire deboli anche le altre borse di carattere europeo. Milano perde l'1,1%, l'1% lo perde Parigi, l'1,25% Francoforte, meno 0,36% Londra, Dow Jones meno 0,60%. Bene, oggi Saipem più 1,84% per via dell'accordo OPEC che proroga i tagli. Invece le immatricolazioni sono attese in negativo, ma ancora non le vedo, e hanno penalizzato quelle USA, in particolare Fiat. Fiat e la controllante anche Exor ha perso il 2%, Exor, Case New Holland meno 1,80%, Ferrari meno 2,25%, Fiat Chrysler meno 2%. ST Microelectronics continua ad andare male dopo Morgan Stanley e il report su Samsung. Ha perso oggi il peggior titolo, il 3,62%. Debole Biper Banca meno 3%, Buzzi Unice meno 2,80%, Unipol meno 2,70%, come Italgas. Eccole qua le immatricolazioni auto a novembre in Italia, più 6,8%, però Fiat Chrysler fa meno 5%, la quota è al 25,1%, scende dal 28,4% al 25,1%. Andiamo sul traffico e poi il rapporto Censis. La ripresa c'è, ma aumenta anche la ripresa del rancore sociale. Focus Economia. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Dicevamo appunto in apertura, una revisione abbastanza non attesa del PIL nel terzo trimestre, più 0,4%, porta su base annua la crescita all'1,7%, resta un quadro positivo. La crescita acquisita, cioè quindi la crescita che abbiamo fatto nei primi 9 mesi, se non crescessimo nel quarto trimestre, sarebbe comunque dell'1,4% contro un 1,5% precedentemente stimato. Insomma, a fine anno dovremmo fare 1,7-1,8%, ma in questa parte, come annunciavo, vorremmo commentare il rapporto annuale, il 51esimo rapporto del Censis sulla situazione economica del paese. Allora, il titolo di quest'anno è "La ripresa c'è, ma cresce l'Italia del rancore". Dopo che l'anno scorso il Censis titolò l'Italia dei rentier, quindi chi guadagna grazie alla rendita, che non investe sul futuro, il capo economico dei millennials, mentre nel 2015 il rapporto si intitolava "Una società sconnessa a bassa autopropulsione". Devo dire, senza offesa per il Censis, che a giudicare dai messaggi che arrivano a questo programma, quando raccontiamo una crescita migliore delle attese, l'avevamo capito empiricamente che c'è una ripresa in corso, ma aumenta anche il rancore. Rancore o arrabbiatura di chi si sente escluso di questa ripresa in corso, da chi non la vede, da chi ritiene addirittura che siano tutte balle filo governative, cosa che non è perché è certificata dall'Istat. Insomma, lo vediamo tutti i giorni, mai in questi 18 anni ho visto tanta, così, non dico aggressività, ma rancore, usiamo il termine del Censis, ogni volta che si comunica un dato migliore o un dato positivo, migliore delle attese o positivo. Uno dovrebbe essere comunque contento, dice, almeno non va così male. No, è quasi, viene letta quasi come un'offesa. Direttore del Censis, Massimo Valeri, buonasera. Buonasera a voi. Ecco, noi ci eravamo arrivati molto modestamente tramite WhatsApp, SMS, insulti vari. Voi dite, la ripresa c'è ma non si è distribuito il dividendo sociale, il blocco della mobilità sociale crea rancore. C'è il boom di persone in povertà assoluta, più 96% l'aumento dal 2007, migliora però lo stile di vita e la condizione occupazionale femminile, si consolidano i segnali di ripresa per il lavoro giovanile. La strada è lunga, per carità. A me la cosa più importante sembra il rancore. E voi vi aggiungete anche la paura del declassamento come un nuovo fantasma sociale. È un rancore e una paura del declassamento sociale. Sappiamo che anche la povertà molto spesso è un termine relativo, oltre che l'indice di povertà assoluta, ma tu ti senti più povero rispetto a quello che vedi attorno, non solo contando i soldi, ma anche guardando quello che capita alla comunità in cui vivi. Quindi rancore e paura del declassamento sono elementi tali che a mio avviso stanno quasi rischiando di creare un rigetto in parte della popolazione e anche degli ascoltatori ogni volta che si dà un dato positivo. Come mai? Sì, quello che voi verificate empiricamente con i messaggi che ricevete è quello che abbiamo constatato anche noi con il rapporto di quest'anno. Avevamo appena finito di metabolizzare il fatto che nel nostro paese si è rotto quel patto sociale per cui le nuove generazioni sarebbero state in condizioni sociali, economiche, occupazionali migliori delle generazioni precedenti, quando oggi invece si agita un nuovo fantasma sociale. Cioè non soltanto si ha ormai la consapevolezza, soprattutto tra i giovani, che siano difficili i meccanismi di ascesa sociale, ma oggi ormai si ha paura addirittura di tornare indietro, di un declassamento, di un arretramento. E allora, come io per difendere il mio benessere soggettivo devo rimarcare le distanze, le differenze dagli altri. Ecco il rancore, che lo si vede in tanti episodi di cronaca quotidiana, ma lo si vede molto bene se ad esempio guardiamo i sentimenti che animano le persone nei confronti degli stranieri, degli extracomunitari, che in più della metà degli italiani suscitano negatività e soprattutto la suscitano nelle classi sociali meno abbienti. Quindi devo prendere distanza dagli altri per difendere il mio benessere soggettivo, perché temo un declassamento, un arretramento, il capitombolo sociale. I dati della povertà che sono in crescita includono tra loro anche porzioni del ceto medio che in questi anni della crisi hanno perso reddito, hanno perso occupazione e sono effettivamente andati indietro nella scala sociale, sono diventati poveri. Allora, qui lo dico a chi sta già scrivendo al 349-238-6666, bisogna sempre distinguere tra il dato economico secco, e c'è la povertà assoluta, la povertà relativa, e poi la percezione che tu hai, quindi una percezione anche sociologica della tua posizione. Perché lo dico? Perché è chiaro che vedere una difficoltà forte nel ceto medio non vuol dire che il ceto medio sia finito necessariamente in povertà, né vuol dire che questo aumento del rancore, se ho ben capito direttore Valeri, sia solo da legarsi alle persone che sono finite effettivamente in povertà assoluta, più 165% e più appunto dal 2007. È un rancore che prende anche classi che non hanno, da un punto di vista economico, se ho ben capito, la povertà relativa assoluta, ma vedono scivolare il loro posizionamento sociale, e sappiamo in sociologia, questo è un classico, che il processo di distinzione si fa sempre verso lo strato sociale che è immediatamente sotto di te. Cioè tu temi di essere, di venire inglobato nella fascia sociale che ritieni essere sotto di te, così come il processo di aspirazione è sempre sulla fascia immediatamente sopra di te. Ho capito bene, cioè c'è l'elemento economico dell'impoverimento, per carità, ma c'è anche l'elemento sociologico? Sì, è un elemento di percezione, perché poi, dobbiamo dirlo, cioè la prima parte della nostro racconto dell'Italia comunque è che la ripresa c'è, e questi sono fatti oggettivi. Non soltanto ce lo dice una stima del PIL che crescerà dell'1,8-1,7 alla fine dell'anno, ma sono cresciuti i consumi, sono ritornati gli investimenti che crescono del 4,6% nel terzo trimestre, la produzione industriale cresce più di qualsiasi altro paese europeo, cioè anche rispetto al nostro Moloch dei benchmark, la Germania. Beh, l'indice della produzione industriale italiana ormai dal 2015 va in parallelo e in molti casi supera l'indice della produzione industriale tedesca. Quindi l'export ha continuato a correre negli anni della crisi, ma ancora negli ultimi anni. C'è una ripresa dell'occupazione, più 1,4%. Sono ripartite le compravendite delle abitazioni, che avevano subito negli anni della crisi un arresto molto pesante. Quindi la ripresa c'è. Il problema è molto quindi nella percezione, cioè quando diciamo che non si percepisce una distribuzione del dividendo sociale della ripresa economica, significa che poi con i consumi le persone hanno coltivato un ritorno a un certo benessere soggettivo dopo aver compresso per tanti anni la spesa, però non si ha la sensazione di una ripresa dei meccanismi di ascesa sociale, di una forte proiezione in avanti, questo nei diversi strati sociali, ma soprattutto in quelli più in basso. C'è anche da considerare però un fatto che della ripresa occupazionale, che pure c'è stata, è un fatto oggettivo, ne hanno giovato soprattutto le posizioni in alto della piramide professionale, cioè le professioni intellettuali, quelle a maggiore competenza, e quelle in fondo alla piramide professionale, cioè i servizi alla persona, i lavori con più bassa qualifica. Quello che si è indebolito sono le posizioni intermedie, cioè quelle del tradizionale ceto medio, artigiani, operai e impiegati, che invece non hanno registrato un recupero occupazionale. No, no. Questo è un fatto. Ecco, tutto questo però porta a dire che, siccome lei dice, da un lato, quello che cerchiamo di spiegare anche noi modestamente da mesi, da un lato tutti i dati economici ci dicono che una ripresa non sufficiente, ancora parziale, ma c'è ed è in corso, che non si sta peggio del 2015 e neanche peggio del 2016, però questo non vi è, suscita appunto il rancore di cui voi parlavate. Non è che la chiave di volta sia la parola polarizzazione, cioè noi vediamo che anche tra le imprese ci sono quelle che si sono riqualificate, sono molto vocate all'export, hanno cambiato i prodotti sulla parte più alta della fascia, vanno bene, tu parli con gli imprenditori, ti dicono ma io sto anche assumendo, vado bene, i fatturati sono ripartiti. E poi ci sono imprese quasi simili, quindi non per area merceologica né per area geografica, ma che non hanno fatto questo passaggio, che non vedono nessun tipo di ripresa. E questo vale anche per i singoli individui. Appunto, lei citava i due estremi, la parte più bassa, la parte più a maggiore competenze, vedono la ripresa, la parte in mezzo no. A me sembra che questa difficoltà, di cui la politica, visto che si va verso la campagna elettorale, dovrebbe tener conto prima di iniziare a dire signori la ripresa c'è, e non capire che molti non la vedono, oppure dire la ripresa non c'è, tutto va da schifo, e non capendo che invece per un'altra parte del paese non è così, c'è un miglioramento. Ecco, tutto non si può spiegare con la polarizzazione, cioè una volta una ripresa si distribuiva meglio, adesso non voglio citare l'indice di Gini, ma è più polarizzata. C'è chi la vede anche in maniera robusta, e c'è chi non vede nulla. Polarizzazione è la parola chiave. Infatti dire la ripresa c'è non basta. Bisogna dire la ripresa c'è, virgola, ma perché la ripresa congiunturale molto positiva che stiamo vivendo è veramente una grande opportunità che non va sprecata, no? Dopo gli anni passati di grave flessione delle aspettative anche delle persone, è una grande opportunità. Però per tradurla in una crescita, in un ciclo di crescita economica consolidata, strutturale, bisogna mettere le mani su una serie di problemi da maneggiare con cura, diciamo noi. Cioè una serie di problemi che il paese si porta dietro dagli anni, negli anni, e che oggi con la ripresa vanno presi di petto, vanno affrontati. Questo è l'unico modo affinché i benefici della ripresa e quindi della crescita possano estendersi e coinvolgere tutto il corpo sociale. Io cito tre problemi ancora, perché è vero che abbiamo tanti segni più davanti a praticamente quasi tutti gli indicatori economici, però c'è un tema, c'è un grande assente macroscopico: gli investimenti pubblici. Nel 2016 sono stati ancora, in termini reali, il 32,5% in meno del 2007, l'anno della crisi. Cioè oggi ancora abbiamo un ammontare di investimenti pubblici che sono pari a un terzo in meno di quelli che erano prima della crisi. Quindi gli investimenti sono ripartiti, ma sono investimenti privati. Quindi primo tema, gli investimenti pubblici. Sì, gli altri due? Secondo tema, la dinamica salariale. Sì. Al terzo trimestre di quest'anno le retribuzioni sono aumentate soltanto dello 0,5%. I consumi si gioverebbero di una ripresa delle retribuzioni e dei salari più vigorosa. Non a caso abbiamo, terzo problema, un'inflazione, una crescita dell'inflazione ancora più 1,1%, che è ancora non soddisfacente. Non a caso Draghi, il presidente della BCE, nelle ultime settimane, in ogni occasione pubblica, ha richiamato proprio su questo punto, cioè ora è il momento di far ripartire anche i salari e le retribuzioni per trasferire nella disponibilità di reddito delle famiglie, dei più ampi strati sociali, una capacità di tornare ai consumi e quindi rimettere in moto tutti i circuiti dell'economia. Allora, direttore, visto che oggi veniamo dalla poco invidiabile classifica, il tema degli investimenti pubblici è anche usare bene quelli che abbiamo, ma dopodiché, quando siamo ancora sotto di un 30% rispetto al 2007, è inutile che qualcuno mi accusi di essere keynesiano e di pensare che l'investimento pubblico da solo serva, però senza un investimento pubblico, qui andiamo al tema del patto di stabilità, clausole di salvaguardia, Europa che dice a parole sì siamo per la crescita ma non si vede un nulla o pochissimo, senza gli investimenti pubblici la storia ci insegna che non ripartiranno mai a pieno regime gli investimenti privati. Ci sono altri temi, e quindi anche un po' di consumi e forse anche un po' di spinta sui salari intanto come occupazione maggiore e poi anche come aumento del singolo salario. Ci erano altri temi interessanti, ma li rimando, poi ne parlerà anche Roberta Giordano in effetto notte. Mi riferisco a un paese in cui, ma va da sé con quello che mi ho detto, il futuro è incollato al presente, quindi non si riesce mai ad alzare la testa e avere un minimo di visione di medio termine. E poi una cosa che riguarda noi come giornalisti: voi registrate metà degli italiani ingannata dalle fake news, ma per il 78% si tratta di un fenomeno pericoloso, almeno questo. Grazie al direttore del Censis Massimo Valeri, grazie come sempre a Mauro Del Cone e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione e in studio anche questa settimana. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata e di un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Radio 24, libera la voglia di fare.